passione africana. My name is Yunus Safari. I'm 13 years old. Mi chiamo Yunus Safari e ho 13 anni. My life was not too good because my parents, my father and my mother didn't like me. La mia vita non era bella perché i miei genitori, mia madre e mio padre, non mi amavano. Drunkard, they were taking drugs like mira and other and bang. Also, mio padre si drogava ed era sempre ubriaco. Non connetteva. Non potevo parlare con lui. Anche un amico ha avuto lo stesso problema. E allora ce ne siamo andati di casa. Dormivamo nei cassonetti della spazzatura. When I was going there, we are borrowing money. If you sometimes you borrow money. Ogni tanto riuscivo a farmi prestare un po' di soldi, però è pericoloso. Una volta mi hanno pestato. A volte stavo 2 giorni senza mangiare o mangiavo solo qualche frutto marcio che trovavo al mercato. Per guadagnare un po' di soldi devi raccogliere pezzi di metallo un po' ovunque, in città, nelle baraccopoli, e poi li vendi, così puoi comprarti qualcosa da mangiare. Li vendi a un tipo che poi si occupa di venderli alle aziende. A volte non trovi i metalli e allora fai la fame. Però se riesci a raccoglierne una certa quantità puoi stare anche molto bene. Però a volte è rischioso. L'altro giorno un ragazzo che conosco ha dormito sotto una macchina bombata. Purtroppo la macchina è partita e gli è schiacciata la testa e lui è morto. So he died. Say for example, I'm in Nairobi. And I see Nairobi, this life is too hard. There is no money, there is people are very harsh. A Nairobi a volte la vita è troppo dura. Se hai fame, rubi. Per esempio, se io ho fame e vedo che tu hai un generatore di elettricità nel tuo giardino, vengo e te lo rubo. A generator outside I steal. So find many people are dying because of stealing. You are being beaten very very badly. Però molta gente muore per aver rubato. Perché se ti prendono ti pestano duramente. My name is Paul. I'm 13 years old and I like football. Mi chiamo Paul, ho 13 anni e mi piace il calcio. You went in the street. I went in the street because I can't cross the street with sono cresciuto qui a Kibera. Sono andato in strada perché i miei genitori non mi volevano. Loro hanno tenuto i miei fratellini più piccoli, ma mi hanno detto che per me non c'era spazio. Dopo è arrivato un uomo e ha detto ad alcuni di noi che ci avrebbe aiutati. Invece ci ha rapiti. Poi ci ha salvati Jack che ci ha portati qui. E ora posso ricevere un'educazione molto buona. Now I'm taking a very good education. The man wanted them to go and work for them because the man was lonely, as he was explaining to us. The man was alone. È stato un uomo a rapirlo. Voleva che lavorasse per lui perché lui era da solo e aveva molto lavoro. Vendeva pistole, coltelli e altre armi e aveva delle mucche. Paul era trattato come uno schiavo e doveva sorvegliare le mucche. Spesso non gli dava da mangiare e lo frustava. Lo faceva dormire fuori, sotto un albero. My name is Daniel Magua. Mi chiamo Daniel Magua, ho 13 anni. Sono di Kibera. Prego sempre Dio e gli chiedo, aiutami, perché da adulto voglio diventare un educatore di strada. Voglio aiutare bambini abbandonati, perché nessuno si occupa di loro. Così come Jack, il maestro che ora sta aiutando me. A casa c'erano molti problemi e ho dovuto andarmene. Ho vissuto nella strada. In the dustbins. Dormivo nel quartiere di Ngong, nei cassonetti della spazzatura. Was not good life. Was very bad life. But when the Jack era una brutta vita, ma poi Jack è venuto e mi ha portato qui e io ringrazio Dio. Tell my God thank you. Molta povertà, ma soprattutto grandi disuguaglianze sociali nel Kenya del presidente Kibaki. Lo stipendio medio è di 5.000 scellini keniani, circa 50 dollari americani. Ma a Nairobi le super accessoriate SUV, le grandi 4x4, le ville con piscina sono molto numerose. La classe media si sta rafforzando e questo è uno dei presupposti storici per lo sviluppo, ma sul paese incombe oramai da decenni l'ombra della corruzione e delle tensioni etniche. 3 anni fa il contestato esito elettorale favorevole al presidente sfociò in un cruento confronto tra membri della sua etnia, i Kikuyu, e quelli dell'etnia del suo antagonista e ora premier nel governo di coalizione, i Luo. La violenza invase anche gli slum, come Kibera, creando ulteriori difficoltà nella vita quotidiana e nel tessuto sociale, in cui la categoria più fragile è proprio quella dei bimbi. Jack, l'operatore sociale, ci racconta alcuni casi successi recentemente legati alla violenza, all'abuso di droga e ai conflitti. In altre parole, alla povertà. The mom came from the drug, drunk, and took the knife, and the mom went and took the boy naked and wanted to castrate the boy. La madre, ubriaca, ha preso un coltello, voleva castrare il bambino. Lo abbiamo visto correre sanguinante in strada. È una storia molto brutta. Il bimbo lo abbiamo salvato. È stato da noi e attraverso un processo di riabilitazione siamo riusciti a convincere la madre a cambiare vita, a rendersi conto che era posseduta dal diavolo. Alla fine il bimbo ha accettato di tornare a casa e ora stanno di nuovo assieme e c'è di nuovo amore tra madre e figlio. Questa è una storia di successo. They love one another. This is a success story. Once they will bring them to the rescue center, then we have a dream to them. Quando vengono qui, l'obiettivo è quello di cambiare i loro comportamenti. Per esempio, in strada molti consumano droga, tanti diventano violenti e questo per sopravvivere. Dunque qui li facciamo uscire dalla droga e mostriamo come si può vivere assieme senza dover combattere. In seguito, dopo questo processo di riabilitazione, a volte è molto difficile perché tanti bambini hanno subito forti violenze psicologiche, seguono dei corsi scolastici qui, in questo posto. L'obiettivo è di farli ritornare in una scuola normale dopo un anno. Il piccolo Yunus Safari ha al riguardo le idee ben chiare, così anche altri bimbi. L'educazione è la chiave di tutto, perché è l'educazione che fa sì che un bambino diventi presidente, primo ministro o ambasciatore. In future I prefer to be a minister of education. Mi piacerebbe diventare ministro dell'educazione per aiutare altri ragazzi. Nella Bibbia sta scritto che devi utilizzare il tuo talento per aiutare altre persone. Tanti bimbi, tanti sogni, come essere ambasciatore in Italia, giocatore di calcio, dottore. Lo stesso desiderio di riscatto. Me, I would like to be a Red Cross, whereby I see people when they are hungry, I help them with food. And you? I want to be a minister of education. Minister? Yes. Yeah. When me I'll be 60 years, I'd like to be ambassador. Ambassador where? Of Kenya. But where? Do you know? There is any place you would like to go? Yes. Like Italy. Me, I want to be the best player. La la la la la la we we. Renato Chizzito Sesana, padre comboniano, è lui l'artefice, il promotore di Koinonia, di questi centri in cui i ragazzi della strada trovano una porta aperta verso un futuro migliore. coinonia luogo della speranza. Lui però, Renato Chizzito, non nasconde le proprie inquietudini. Io credo molto nelle potenzialità di questi ragazzi, di questi giovani, perché hanno ancora una straordinaria voglia di crescere e una voglia di vita, di vita vera in tutti gli aspetti. Il problema è che poi qui c'è una delle società africane più influenzata dal consumismo, dagli aspetti più materialisti e deteriori dell'Occidente. Questa massa di poveri che fin tanto che sono poveri esercitano le virtù tradizionali, per esempio della solidarietà, dell'aiuto reciproco in caso di difficoltà. Si vedono casi straordinari di dedizione gli uni agli altri, e che quando invece diventano ricchi attraverso un processo che trasforma completamente la loro mentalità e diventano chiusi, egoisti, incapaci di aprirsi agli altri, e diventano completamente integrati in questa mentalità di corruzione. Tutto va bene purché possa diventare ricco immediatamente, adesso, subito. Ritroviamo James e la sua scuola di acrobazia. Kids, all they need is the warmth of the quello di cui hanno bisogno i bimbi è il calore degli adulti. Non hanno bisogno di tanti soldi, di grandi case, ma dell'amore, della vicinanza. Sono molto innocenti. Lo spettacolo si chiama Simba na Mende. Simba è il leone, Mende lo scarafaggio. I due si danno battaglia nella foresta. Nello spettacolo appaiono altri animali. Alla fine vince Mende, lo scarafaggio, perché è più furbo. Simba, il leone, usa potere e forza. È una metafora che rappresentiamo con acrobazie, danze, canti. Sì, per loro è difficile credere davvero che lo scarafaggio vince. Abbiamo dovuto convincerli e ora preferiscono lo scarafaggio al leone. Radio 24 ed Eni vi hanno presentato Passione Africana.